Nascen amore, nascen figli, figli du sole, figli da luna. Nascen un cuore sopra su mon, cace forte la buona fortuna. Iesse una voce, iesse un chiamo, tutta la notte la stessa canzone. Durma figlio, durma amore, casa nuova ne o mammona. Dammi, vieni a lavare tutte le cose che ti ha dato. Ma parte da vandau, più bella figlia che già sta. Dammi, vieni a lavare tutte le cose che ti ha dato. Ma parte da vandau, più bella figlia che già sta. Gira la carta, gira la ruota, giro solo sopra sta terra. Scamu gatto, candu gall, che salotto m'ha data una stella. Lascio un fiore in da su cuore, sulla te io voglio da. Sei più bella da una rosa, tu con me da da sposa. Solo per te a patagà, tutta la vita insieme a massà. Questo castello da cartone, buona e sola padrone. Solo per te a patagà, tutta la vita insieme a massà. Questo castello io e te, insieme alla regina un re. Cange colore, cange vestita, cange la luna, volta va nera. Dopo fredda d'estu virne, Venus o la primavera. Tutta l'acqua che non cade, gli è sicuro come la morte. Che d'in gile se ne sta, e scende quando chiama la forza. Dammi, vieni a lavare tutte le cose che ti ha dato. Ma parte della vita, più belle figlie che già sta. Dammi, vieni a lavare